dentro lo stesso timore di un'abitudine vuota, per le stesse paure una promessa è perduta, contro gli stessi pensieri e la ragione veduta, abbiamo solo cercato la nostra complicità. Controvento mi sento più forte di chi non sente il silenzio che c'è tra scure immagini, rivolgiti a me. Controtempo è rimasto qualcosa di noi in quel frammento di vita, cos'è? Tra luci sterili non vedo cos'è, non vedi cos'è dentro noi, un po' anche contro noi la verità. Complicità. Ma tu sarai a darmi un'altra volta la possibilità di svanire dentro te la voglia che ho di te, di libertà. In guerra così divisa per te, tra false verità e veri sguardi di lealtà, contro la voglia di accarezzarti, cercarti e di pensarti con me, ti lascio io, ti lascio ora che già l'hai fatto tu per me. È dentro noi, un po' anche contro noi, la libertà. E tu sarai a darmi un'altra volta la possibilità di svanire dentro te la voglia che ho di te e di verità. E così siamo finiti contro la nostra stessa fantasia. Così siamo finiti dentro un'altra storia, cosa vuoi che sia? E così siamo finiti in preda alla nostra stanca ipocrisia. E così siamo finiti compromessi dentro questa eutanasia. E così siamo finiti compromessi, dopo tutto è solo colpa mia. E così siamo finiti e basta, canto solo un po' di nostalgia.